Siamo in collegamento con Di Andrei in occasione dell'uscita del disco Demagogia, tradurre, tradire, trappare. Questa esperienza è nata come un gioco, com'è che alla fine hai prodotto un album? Perché il gioco che è nato ha avuto subito una ripercussione abbastanza vasta, questa ripercussione, cioè il fatto che sia piaciuto sostanzialmente a molte persone, mi ha spinto a evolvere questo progetto. La sua evoluzione, il fatto che continui a cambiare da quando è nato, mi ha portato infine a questo ultimo passo. Spero non sia l'ultimo, però l'ultimo in senso cronologico. A questo proposito, parlaci dell'album. Allora, l'album è composto per la maggior parte di quelle che io chiamo traduzioni. Non si tratta però di traduzioni in senso letterale, cioè non sono traduzioni a lingue straniere, ma sono traduzioni, si può dire, culturali. Cioè io prendo testi trap, cerco delle parole chiave, dei temi importanti e riscrivo un altro testo seguendo le linee del primo. Cambio la musica, cambio i testi, alla fine si tratta di un inedito, ma è legato in qualche modo al suo originale trap. Senti, invece, Fabrizio De André, quanto è presente in questo album? È presente prima di tutto nella voce, nel senso che il progetto intero è partito da un'imitazione di Fabrizio De André che cantava i testi della trap, è proseguita con sempre queste imitazioni di Fabrizio De André che canta testi che ricordano in qualche modo la trap. Quindi è presente nella voce, è presente negli arrangiamenti musicali, che essendo, diciamo, uno degli artisti che ascolto di più, è stato molto influente sulla mia cultura musicale, sulla mia formazione. Ma hai ricevuto più condanne o più apprezzamenti, ci chiedevamo? All'inizio moltissime condanne, ma in proporzione più apprezzamenti. Credo che le condanne derivino, per la maggior parte almeno, da persone che hanno faticato a capire l'ironia del progetto, che non voleva essere in alcun modo dissacrante, ma voleva essere un omaggio in realtà. Cosa pensi tu della musica trap? È una nostra curiosità. Secondo me la musica trap è venuta, diciamo, alle conoscenze del grande pubblico un po' per moda. Io all'inizio ho recuperato dei testi trap, quelli che in assoluto mi sembravano i più lontani possibili da una poetica come quella di De André. E ovviamente, essendo un genere molto vasto, comprende anche canzoni valide. Ma tu sei uno studente, giusto? Sì. Ok, ma pensi di proseguire nella carriera musicale? Hai già dei progetti futuri o...? Beh, ho questo progetto che per il momento ho registrato un album che era più di quanto credessi di poter fare un anno fa. Adesso lo suonerò in giro e per questa primavera già abbiamo un paio di appuntamenti. Uno abbastanza importante a Roma il 30 marzo all'Auditorium di Parco della Musica. Spero che prosegua in modo, diciamo, fruttuoso. E infatti volevamo proprio chiederti se sono previste delle date, un tour. Sono previste due o tre date, diciamo, un po' più di profilo nei teatri, di cui una è quella assolutamente sicura del 30 marzo a Roma, e sicuramente quest'estate gireremo un po' di festival. Perfetto, allora noi ringraziamo Di André per essere stato ai nostri microfoni, vi invitiamo ad ascoltare l'ultimo album appena uscito, Demagogia, tradurre, tradire e trappare, e speriamo di riaverti ai nostri microfoni molto presto. Spero anch'io, grazie mille. Grazie a te. Ciao.